Ascolto Giulio Rollaro. Ascolto Giulio. Ancora mobili. Siamo ancora molto indietro, vabbè, comunque facciamo città telefonica, non c'è problema. No, ma io sto pensando a lavorare, no? Pensando a lavorare. Sono le 10 a Sassari, ma. E lo lavoro. Ok, ci sentiamo dopo. Ciao, te lei, e prendi. Ok, ciao, salutami Anna. E ci sentiamo. Quindi sei restato da lavorare? Niente, tutto qua. E stasera a casa? Sono a casa anche ieri, già arrivato a Franco. Solo pensavo che non ce l'ho fatta perché mi ha detto che doveva uscire. Se no ce l'avamo visti. E ho detto, sono a casa anche stasera, se non sono una sola fatta, lo sai. Lo sai, Anna non è in molta forma, quindi preferisco rimanere a casa. Vabbè. Vabbè, dai, che ci sentiamo, signor. Sì. Allora, prendiamo questa Franco, ci sentiamo più tardi. Mi faccio una doccia e poi... Ma non vado a mangiare, ci sentiamo magari dopo. Comunque lui, va benissimo la radio, non me ne ero neanche accorto. È ottima, bella, forte, amplificata, c'ha di tutto. Ha fatto una prova, siccome l'avevo provato quando c'era la capsula sua originale. Adesso lo provo mai, poi ho cambiato la capsula, ora il telefono, l'ho messo. E vediamo un po'. Sta aspettando a Giulio che... per vedere un po' se mi diceva lui. No, no, per me va bene. Ah, ragazzi, va bene. Lo lascio qua. E lascio le connessioni del mobico. Neanche troppo forte. Puro. E un bel. Scappare, meglio così allora. Perché ho messo il più 4 qua, ma... No, questa è uguale a quella del microfono originale, è un po' più forte, perché c'ha il modulo di amplificazione e quindi è un po' più forte. Però è bella chiara, forte, è un bel. Kappa, che va bene allora. Chiuda, sparito. Ma non voglio mettere pasta lì. Sono più entrato. Giulio! Sparito. È stato l'uvento a buttare giù la canna. Bene. Sì. Avete? Sì. Non meglio, mi sono. Addirittura. Ah no, stavo leggendo un giornale qua. Scappa. Che male, è una bella giornata oggi. Ehi, una bella giornata. Lì che c'è il mare, fammo caldo. Sì, ma domenica c'era un po' un cavolato. Domenica c'era vento, c'era quel vento forte. Adesso Franco, che vento, non c'è lui. Non stavo pescando a te perché avevo il cane io, perché se no pesco. Ah, ti metti a pescare, facci tu un strano. Allora, faccia pescare. Infatti, oggi lo lascio qua. Non ho fatto che anche la parte che mi stanno anche leggendo, bisogna pensare se comprare la medicina e portarlo anche a farlo sposare. Però quello che serve a fatto lì non mi piace nulla. Sì, favorito. Non mi piace, se sta buffi lì lascia il cane quando mi toglie. L'ha fatto l'anno scorso un'amica mia che abita qua, ma brutto mi l'ha fatto. Infatti devo andare da qualche altra parte e portarlo. Infatti non l'ha fatto, oggi non ho medicina, sennò mi ha stressata un po'. Perché adesso il coltello lungo che ha mi sta pigliata che secca. Cosa? Che li hanno posata? L'ho vista. Ma già quelli non ne ha, quelli ne ha poco pelo. Gliel'ha fatto corto lì. Sì, messaggio va bene. Conta giù i sumari, con i sumari. Una lettera, va. Va bene, la mia ragna. Ma così vedi, mi sa tutto. I cani sono messaggi. Sono come la crisi di un mezzo. Non ti credi in me, appena lo dosi mi cresce in fretta, rubi. Infatti gliela faccio fare corto, corto, a zero, più. Tu non hai mai visto? Io te la prendo la macchinetta, te la fai più, scusa. Allora la macchinetta, ma non ci riesco io. Non ci riesco, ma che ti viene a fare di nato? Ma non so come l'ha fatto di. Cosa nuova, se sei un uomo mi chiamo, te lo dirò, ma non è il problema. Che ti viene a fare di nato? C'è la macchinetta, ci fa, però piano ci fa. Ma quella macchinetta di sacchi che l'ha fatto solo con le basette, quella è solo sua, non l'ho mai usata. A Robina se ne ha tolto con la forbice di lì l'anno scorso. Anche con le forbici va bene, però piano, piano. Sì, ora se la penso, no, no, lo so, io non ci riesco, non voglio carinare. Perché lo dico, non fai l'unico, poi per avere un gruppo in tu, se vi lasciate qualche ciuffetto, la quanti lascia proprio lungo. No, non c'è ciuffetto che tenga, tutto corto, tutto a zero, tutto quanto, senza coda, zacche, tutto, tutto corto. Ma cosa vi vuoi fare? Io non ci riesco. Ah, tu? Non ci vuole. Dovremmo una mezz'ora a fare. Se non si muove già, ci è un in fretta, va? Se si muove, allora, non preoccupa. No, già è bravo, la verità. Quando vivi lo so, già è bravo. Poi dubita, già è nel buone saggi. Quando lo sta soltanto è bravo. Gira, chiedi di gira. Conta che ti può cantare. No, già è bravo, quello già, un mezz'ora. Ehi, di più di un'ora, del buone. Sta quello lungo lungo, me ne ha un bel mi. Ma io di questo la casa. Ehi, mamma mia, oh. Fai tu, Teresa. Da me la cavo la casa di casa, cosa ci può. Tutto punta. La macchinetta sarebbe stato l'ideale, no? Se la macchinetta è via, io per farla. Come fuori ci mangi di più? Beh, con la macchinetta fatti e tagli subito. Perché dove li porti a studiare hanno la macchinetta? Non so, ma si accompagnerà una, quella in cinese, vabbè, una elettrico, a Puglia, lì, una volta che li fa il taglio, li metti dopo, la pulisci bene e la conservi. Ti do una vita, non c'è niente di taglio, sta volendo, ci rovina. Quello già non so, mi andiamo a vedere, certo, questa settimana lo sposeremo. Però fa bene anche lui, fa bene, voglio essere anche proprio la maglietta della torre. Cosa? La maglietta, andiamo a stare mettendo. Il golfo, quando è allora? Certo che ce l'ha. Vabbè, adesso mi dispiace, adesso mi chiama a toglierglielo, no, se no va a caldo. Glielo porto stamattina, glielo lavato, pure mi esce c'è caldo, anche mi sta mettendo in terra, non è che fino alla cuccia, adesso c'è il fresco. Ma la volta che non è quello, te ne prendi altri. E allora, l'ho passato, lo saranno. È che non vuoi, non l'ho preso io, sono ufficiale. Io quelli piccoli però. Mamma mia, non vado in bagno, vai, mamma mia, meglio niente, perché no, poverini, per è troppo un impegno grosso. Vabbè, speriamo un impegno grosso, no, ma sono bene, aspettiamo. Mi spiega di Lugano, mi dice. Lugano, mi dico che mi dico un cristiano. Questo è vero, quello è vero. Capisco, magari un cane grande, no? I cani grandi si vengono in campagna, che apposta in campagna. Cagnolino. Oh, sono deciso, un baboncino, un pincher, vedi, un pincher bello. Un pincher è ancora più bello. La mia cugina, quella di Ugin, ma piccolino, quanto è calmo della mano, ma sai quanto è bellino. Ah, è un pincher, se vogliamo. Tu vai in paga una cucchia. Ma divina, ti del buono imbucciata, ti fanno in tasca. Uno come ti fa questa vicina a casa Manuela. Sì, con la cosetta. No, sarà come che c'ha la figlia di mia cugina. E dove abita lì vicino a te? Manuela si chiama, tu, parrucchiera. Manuela, parrucchiera. Ma grazie. No, ma se la vedo. Non c'è quella di fronte a te, la porta di fronte a te? No. Sono tra parte, la casa. No. Ma sai, se la vedo, te la conosco. E la vedo, la che c'ha, ne figlia. Adesso vediamo, che è lunga. È stato un cane piccolo, non un cane grande. Un cane maduro, a parte che solamente. Come una ragazza di fare di te, ma un cane piccolo troppo gestire. Il cane piccolo va bene in una casa, cani piccolini, ma non puoi mettere un cane grande in un appartamento, quelli lì vanno bene in campagna e poi loro stanno anche meglio, respirano anche aria più buona, e poi vuoi in campagna i cani, non in casa. Questi piccolini così sì. Allora, questi vanno bene, cioè vanno in casa sì, ma non mi vuoi più così. Ciao, no, abbiamo avuto il cane di Maria Luisa, che è da ritenere il cane. Dimmi tutto, che mi chiamo avanti? Ciao Roberto, mi hai sentito? Mi senti Roberto? Perché lì la cosa non va sul microfono, se no ci fosse di me. Dove c'è Roberto adesso? Cazzo! Andava Roberto. Adesso non dai ci arriva, la parte di Alghero. Tu stai arrivando, ti ascolto, la radio c'è, però segnale un cillante. Ti ascolto, dai, non c'è problema. Io non ti ascolto bene, a Luglia. No, bene, bene, bene, bene, però non riesco a levarti in fuori Roberto, avanti. Sì, continua, continua, se tu lo dici, no? No, c'è un lato e basta, te le vuoi mai? Oh, come adesso? E adesso? Tre. No, ci siamo, tu stai toccando quello della potenza. Se fate il segnale più basso. C'è un segnale di cosa, di... come si chiama? Di Claudio. E adesso? Ora mi senti? Adesso sì, però la radio, metti che devi toccare, metti leggermente, non mai, leggermente. E niente, metti niente, metti niente. No, è il seghino, metti niente. Dottore, stai usando di polo con quella radio, Noi usiamo di polo, aspetta che cambiamo, aspetta. Ho detto quando esci domani tu cosa devi trattare. Ciao Robè, 9 più 10 qua sì. Aspetta un attimo Robè, scusa, non ci siamo. Dove c'è già il passino del quello non ci sono niente da attaccare. Ah, c'è la stare che si incasina, lui, lascia la stare che va tutto. Tutta fasciata, non l'ho fatto mai io. Campo del Rosmetro, va bene. attimo, mi sto mettendo. Luca. Un pacco di soldi con la macchina lì a gestarlo. Va. Non basta a me si racconta che la faccia la deve. Infatti anche a me se lo trovavo quel pezzo lì. Poi mi sono dimenticato di riportarla a te. Cioè, non so se mi vuole lasciare le chiavi. Tanto sto lavorando adesso, non c'è problema, io la posso fare a vostro favore. E si porta lì da te, vedrò un po' la si può fare. Me l'ha portata, io l'ho già vista, ma a quanto pare ti ero detto che lì bisogna cercare tutti i pezzi usati, perché a comprarlo loro si vogliono più di 1.000 euro. Un pazzo mi sembra la fatto che li fanno parlare, ma che c'è un mucchio di lavoro in mano all'opera. E lui mi ha detto che dovrà regalargli una macchina buona e questa qua la prendo la busta. Sì, sono peccato, sono peccato la macchina, c'è un motore veramente, un gioiello, io l'ho provato la macchina. Questo è un modello vecchio, cammina bene. Se la regalano si sono fatto tutto il tempo che si accogliono sarà giusto, perché non è male come macchina. Infatti, se glielo chiedo. Se glielo chiedo, poi chiamo la metà posto io, non ho problemi. Siamo rubili la penso. Dopo si vuole, Luca. Prendo un po' di ruota dalla macchina usata, stacchi tutto e metti tutto. Poi si vedrà roba. Se ce la spendere capo 1.000 tra passati o aggiustarla, 1.000 rotti io non mi dono il manco. È una bella figlia, non è male. Lo so, è una piegata allucinante. Come dico? Non dice il culo, lì sappiamo mangiare a piede. Fanno quel passaggio compra o prendere, no, quello le sua vicenda. Quello anche loro mi sembra che sia, anche se mi arrivo. La procura la fai se hai un autosalone, un'attività che prendi le macchine e le vendi. Allora io parlo se ti faccio la procura, dopo la procura tu la puoi versare, la puoi demolire, la puoi vendere a un'altra persona, se hai bisogno di disturbare a me, capito? Praticamente la macchina risulta a te, non risulta più a lui, sperando sempre, non so come si chiama il cavolo di passaggio, buffo, l'avevo detto di volte, perché mi è capitato tante volte, lavoro questa macchina, ora cammina bene, te la regalo di fare il passaggio, però lui voleva fare il passaggio quello normale, infatti l'avevo detto e niente, non l'avevo voluto andare. Tra privati devi fare il passaggio normale e ci vogliono 350-370 euro. Gappa, non so roba. Non so che dirti, veramente, non so che dirti. Adesso vediamo, dai, vediamo, cosa riusciamo a fare. Quella potrebbe essere una macchina interessante, a qualcuno di Vissosa, da prenderla qua. Se no, se ne trova la macchina a regalo, come dici tu. Io per esempio la giocando un bel tanto, sto cercando una Panda per me e non riesco a trovarla. A regalo? Se è regalo, anche se c'è il motore sbarrato, non me ne frega nulla, quello lo faccio. Non è quello il problema, è interessante perché se non devo buttare un po' via. Marica, sono 200 euro, la Puglia, Mari, qualcuno la truffi, si è messa male di motore e poi già tu sistemi tu il motore. Mi chiedo perché devo, mi chiedo con la macchina perché devo spedirla fuori. Gappa, andare, e beh dove sei arrivato roba? No, lo sto prendendo, vicino a Conforama. Gappa, sparato sì qua, 9 più 20. Quando scalda, non ce n'è. Marino, chissà, c'è, cioè, sempre qua, vicino a me. Io sto prendendo lo zinco, la bella 131. Ma a casa tua? No, è a casa mia, sì, la ultima. Gappa, già va bene, Roberto. Già va bene. Allora, si spinge questa radio, cosa ne dici? No, questa cosa è buona, mi piace questa cosa. Bell'audio, è bella, adesso è bella. Dopo qua facciamo un problema che ti rubava un po' di modulazione, adesso è bella come la faccio. Gappa, no, ti sei un bel spunto, si sente la modulazione che un po' capisci a me, si sta spingendo e si sente bella spinta, non si deve dire. Gappa, si sente proprio un bel forte. Tutti lo sai. Ma in varia. Ma partendo sta qui. Mi ha accompagnato mia sorella che è venuta un paio di giorni a far accompagnare la mamma. Buon proseguimento, vabbè, buona carica, lo fai e buona domenica, ciao.